Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Riprendiamo la conversazione interrotta ieri sera con Dominique Matt, direttore del Fraunhofer Institute di Bolzano. Buonasera Matt e bentornato. Buonasera. Dunque, ieri abbiamo parlato di fabbriche di quarta generazione o smart factory che Matt ha definito come degli insiemi di oggetti intelligenti che si parlano tra di loro. In effetti ieri abbiamo visto che ci sono molti livelli di intelligenza. Tutto parte però dalla possibilità, come si dice oggi, di informare ogni stadio della produzione, a partire dagli stessi prodotti, i quali sanno a che punto si trovano del processo di produzione, che lavorazioni mancano, se hanno un qualche difetto. Poi ci sono le macchine utensili, anche queste dotate di una loro intelligenza che li rende in grado di prendere decisioni, per esempio sulle lavorazioni da effettuare e sulla loro priorità. Infine c'è un'intelligenza di insieme dell'impianto industriale che gli permette di gestire autonomamente la produzione industriale, programmare la manutenzione, eccetera, eccetera. Naturalmente questo è uno scenario che appartiene al futuro, di cui però troviamo già oggi tanti esempi concreti, per quanto limitati. Dunque lei, Matt, sostiene che ci troviamo di fronte ad un processo che inizialmente avrà l'aspetto di una evoluzione, ma che poi assumerà le caratteristiche di una rivoluzione. Possiamo partire da qui, ecco, le chiedo perché. Esatto. Beh, da un lato la parte dell'evoluzione è legato al fatto che dobbiamo sempre andare a passi, cioè a singoli gradini, per raggiungere un certo stato operativo in un contesto di industrializzazione che già esiste, ma comunque il potenziale è quello di una rivoluzione, una quarta rivoluzione industriale, il che significa che la fabbrica stessa diventa l'oggetto della riprogrammazione, della rimodulazione, cioè si adatta alle esigenze del mercato in modo più flessibile possibile. Oggi come oggi il nostro concetto di industrializzazione è ancora basato sulla produzione a larga scala, mentre in futuro, con la personalizzazione che esiste a livello mondiale, sarà necessario di adeguarsi all'esigenza individuale del singolo cliente. Perciò devo in futuro essere in grado di produrre con la stessa efficienza di una produzione di massa. Però con una flessibilità di un artigiano. Ecco, è possibile che in questo senso stiamo andando però verso una fabbrica intesa come una commodity, una specie di fabbrica diffusa in cui io decido di utilizzare oggi questa, domani quella? Assolutamente, questo è uno scenario che si sta discutendo sia a livello della ricerca ma anche nella prassi industriale. Fondamentalmente potrebbe essere composta sia da piccole fabbriche, per esempio anche utilizzando l'additive manufacturing, la stampa 3D, sì. Esatto, ma non solo, c'è anche la possibilità che l'intelligenza che c'è nelle macchine possa creare una rete di collaborazioni, come l'ho detto anche l'altra volta, che praticamente la macchina stessa sa chi sono i partner con i quali collaborare e dà anche consigli da dove potrei avere questa collaborazione, questa lavorazione. C'è addirittura il prodotto che è anche lui intelligente, si sceglie in quale fabbrica farsi produrre. Esatto, è così. A che punto siamo di questa trasformazione? Ma soprattutto le chiedo se questo processo di trasformazione delle industrie è comune a tutte le strutture industriali, per esempio quella italiana e quella tedesca sono simili in certe cose, diverse in altre, più o meno grande industria, per esempio. Ma guardi, secondo me è solo in parte una questione di dimensione dell'azienda, perché le grosse aziende sono anche nate da piccole strutture, ma è piuttosto una questione da quale contesto, in quale settore industriale, in quale fase di avanzamento riguardo di certe tecnologie. Perciò ogni realtà industriale deve essere analizzata ad hoc per capire quali sono le misure e i componenti applicabili per fare un passo verso l'industria 4.0. In Italia c'è la percezione spesso di una piccola media industria molto, molto operativa, ma contemporaneamente di un po' di mancanza di grande industria che spesso tira, no, l'innovazione. Mi domando se questa distinzione sarà altrettanto importante in questa ottica di fabbrica 4.0. Probabilmente di meno, perché come ho già detto prima, c'è più l'idea della rete di collaborazioni, perciò questa rete comunque consiste di player grandi e consiste di player più piccoli, e perciò è più l'intelligenza che riesce a gestire questa intelligenza distribuita piuttosto che avere un grande o piccolo player. Allora, il tempo è tiranno, dobbiamo fermarci qui. Naturalmente c'è tutta una dimensione, quella dell'impatto di questo scenario sull'occupazione, sul mondo del lavoro, che abbiamo lasciato inesplorata. Ci torneremo in futuro. Per intanto ancora grazie Dominic Matt. Grazie a lei, dottor Melis. E a voi tutti buon fine settimana, a lunedì. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.